In 26 paesi dell'Asia si teme un nuovo tsunami e la memoria torna a quello che devastò le coste nel 2004. Collocati bot per 11 miliardi, vola il tasso dei titoli a 12 mesi, recuperano le borse, la preoccupazione di Napolitano per la crisi, c'è un ritorno da clima invernale. Tutti sapevano, io ero solo un contabile, dice l'ex tesoriere della Lega, la protesta dei giovani padani alla manifestazione di Bergamo contro Renzo Bossi. Le nostre lauree dicono sono vere e ce le siamo sudate. Calcio, il Milan è ripartito, ma la Juventus è pronta per il controsorpasso. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. È tornata dunque la paura in Asia, 8 anni dopo il terremoto e il violento tsunami che ha devastato le coste di diversi paesi, lo ricorderete. Paesi che hanno lavorato per rimettersi in piedi in questi anni anche grazie agli aiuti internazionali, ma che oggi fanno i conti con nuovi terremoti e soprattutto nuovi allarmi tsunami. Ci racconta tutto in diretta Adriana Fracchia. Sì, buongiorno. Come hai detto appunto tu, allarme tsunami in tutto il sud-est asiatico dopo un terremoto di magnitudo 8.8 avvenuto oggi al largo dell'isola indonesiana di Sumatra. La prima fortissima scossa si è verificata alle 14.38 ora locale, alle 10.38 in Italia, nelle acque a oltre 400 km a sud-ovest di Banda Aceh, secondo quanto riferito dall'Istituto Americano di Geofisica. Una seconda scossa di magnitudo 6.5 è stata invece registrata poco dopo. Immediato è quindi scattato l'allarme tsunami del centro di allerta del Pacifico. E ricordiamo che il sisma è stato avvertito in modo molto violento anche a Singapore, in Thailandia e nella parte meridionale dell'India, tutti i paesi che insieme a Indonesia e Sri Lanka hanno lanciato l'allarme, e ora le autorità di Bangkok hanno chiesto alle popolazioni di abbandonare le coste del mare delle Andamane per ripararsi in posti elevati, ed è stato chiuso l'aeroporto di Phuket nel sud della Thailandia. Momenti di panico si sono avuti anche in India. Al momento non ci sono però notizie di vittime, lo abbiamo chiesto e abbiamo sentito per questo anche l'ambasciatore italiano in Indonesia, Federico Failla. Sentiamolo. Noi abbiamo appena parlato con la protezione civile indonesiana. Ci hanno detto che le zone colpite, più immediatamente colpite, non hanno elettricità né è possibile parlare al telefono, quindi al momento anche per loro la situazione è difficile da valutare, perché appunto non hanno notizie. Stanno mandando dei team di assistenza da Jakarta, quindi è prematura qualsiasi valutazione su danni a persone e cose. Siamo riusciti a metterci in contatto con un italiano che al momento è a Banda Aceh, che la città in una delle zone che è stata colpita dal terremoto. In questa città non risultano danni a persone e cose, hanno sentito il terremoto, c'è stato un po' di spavento, però a prima vista, secondo quello che ha potuto vedere il nostro connazionale, non ci sarebbero danni, però al momento non siamo in grado appunto di sapere di più. Nelle zone immediatamente colpite dal terremoto non ci risultano italiani residenti. Adesso ovviamente siamo in contatto qui con tutte le autorità per saperne di più, se risultano stranieri residenti e se tra di loro ci sono italiani di passaggio, non residenti. Sappiamo che non ci sono residenti. Ecco, permane comunque un'allerta tsunami, quindi... Guardi, c'è una allerta tsunami che non sembra così grave, ecco. C'è questa allerta, però il rischio di tsunami non sembra elevatissimo. Vedremo adesso come evolve la situazione tra un po' di tempo. Ecco, questo dunque l'ambasciatore italiano in Indonesia, Federico Failla. Chiaramente la Farnesina, attraverso l'unità di crisi, sta compiendo verifiche sull'eventuale presenza di italiani nelle zone coinvolte dal terremoto. L'isola di Sumatra, come abbiamo ricordato, è stata scossa il 26 dicembre 2004 da un sisma di magnitudo 9.2 che provocò uno tsunami sulle coste di una decina di paesi del sud-est asiatico, causando la morte di oltre 200.000 persone. Secondo l'Istituto Nazionale Italiano di Geofisica e Vulcanologia, però, la faglia del terremoto odierno è diversa rispetto a quella del 2004, ma di questo parleremo nella seconda parte di GR24. Per ora è tutto. Grazie ad Adriana Fracchia. Dunque torneremo ad aggiornarvi all'interno di questo GR24 su quanto sta accadendo in Asia. Ora invece uno sguardo ai mercati, che questa mattina tirano un sospiro di sollievo. In diretta Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Le borse europee tentano il rimbalzo dopo la giornata da brividi di ieri. Ricordiamo che Milano ha lasciato sul campo il 5%, più di 70 miliardi miliardi di capitalizzazione e oggi, dopo aver segnato ieri la performance peggiore, oggi segna in Europa la migliore. Il quadro vede il FTSE MIB, il principale indice di Piazza Affari, in rialzo del 2,40%, Londra guadagna appena lo 0,53%, abbiamo Francoforte in rialzo dell'1,33%, Parigi più 1,44%. Netto riscatto oggi a Piazza Affari di tutte le banche che guadagnano fra il 5, il 6 e il 7% della Popolare di Milano. C'era grande attesa oggi soprattutto però per l'esito delle aste organizzate stamane dal Tesoro italiano. Il Ministero delle Finanze ha collocato bot trimestrali e annuali per 11 miliardi di euro con tassi che però hanno segnato cospicui rialzi. In particolare il rendimento del bot annuale offerto per 8 miliardi e richiesto per oltre 12 miliardi è salito al 2,84%, il doppio rispetto all'1,4% dell'asta del mese scorso. Ancora più accentuato il rialzo del bot a 3 mesi, collocato per 3 miliardi, la domanda era stata di quasi 5 miliardi e mezzo, il tasso si è attestato all'1,24% rispetto allo 0,49% dell'asta di marzo. Da segnalare come contraltare quello che è accaduto invece in Germania, c'è stata anche un'asta tedesca, nel corso della quale sono stati collocati 3,87 miliardi di Bund a 10 anni, in questo caso il rendimento è stato dell'1,77%, pensate, il livello più basso di sempre. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Il Presidente del Consiglio Mario Monti, pur seguendo con attenzione l'evoluzione dello spread, non ha in questi giorni commentato né direttamente né indirettamente le cause che ne sarebbero all'origine, lo ha precisato in una nota a Palazzo Chigi. Ha parlato invece della crisi il Presidente della Repubblica Napolitano, si dice molto preoccupato per i recenti rialzi dello spread e cali di borsa. Noi siamo naturalmente sempre molto preoccupati per il quadro internazionale ed europeo in cui si collocano gli andamenti della nostra economia. Abbiamo avuto e stiamo vivendo un breve ritorno di clima piuttosto invernale anche sui mercati, che speriamo possa essere rapidamente superato. Abbiamo una crescita molto seria di disoccupazione, soprattutto di disoccupazione e inoccupazione giovanile. Di tutto ciò si tiene conto e si terrà conto in Parlamento anche nel discutere del progetto di riforma del mercato del lavoro, sia nel senso che certamente abbiamo bisogno di un mercato del lavoro più trasparente, meglio regolato, più efficiente, ma abbiamo bisogno anche di creare le condizioni per nuova occupazione, soprattutto tra i giovani. Queste le parole di Napolitano quando lo spread viaggia ora a 368 punti contro un'apertura a 400 punti base. E per dare una spinta alla crescita e aiutare i giovani a trovare un lavoro, il governo annuncia nuove misure per aiutare le start-up digitali. In diretta da Roma, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Promuovere e far crescere le idee, soprattutto quelle dei giovani, attraverso un sostegno alle start-up e digitali, questo è lo scopo del primo forum dedicato all'agenda digitale italiana organizzato da Confindustria Digitale, dar vita ad un grande progetto per lo sviluppo dell'economia digitale nel nostro paese, attualmente in forte ritardo rispetto al resto d'Europa. In Italia, per citare un dato, l'uso di internet è limitato ancora al 50% della popolazione, solo il 4% delle imprese effettua vendite online, mentre se ne i prossimi 3 anni si investisse in economia digitale, ha detto il presidente di Confindustria Digitale Stefano Parisi, potrebbe esserci un aumento fino al 5% delle PIL. Ed è proprio in quest'ottica che nascerà una task force governativa per promuovere le nuove aziende digitali. Si punta anche a misure di varia natura, amministrativa, fiscale, di semplificazione burocratica, di credito di imposte e di sostegno all'internazionalizzazione, per alimentare in Italia un ambiente nuovo che incoraggi e promuova la nascita e la crescita di imprese innovative. Dobbiamo accelerare tutto ciò che spinge la crescita, ha detto il ministro dello sviluppo Passera. In Italia c'è ancora molto da cambiare. Passera, entrando, ha poi brevemente commentato la crescita dello spread, sottolineando che non dipende da un presunto indebolimento della riforma del mercato del lavoro. Le due cose principali, ha detto, si chiamano Germania e Spagna, e a queste si sono aggiunti i dati non buoni degli Stati Uniti e della Cina. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. serve un mercato del lavoro più trasparente, meglio regolato ed efficiente, ma serve anche nuova occupazione per i giovani, ha detto ancora Napolitano, abbiamo sentito prima le sue parole. Oggi giornata importante per il provvedimento messo a punto dal governo, inizia infatti il suo iter parlamentare. Nel pomeriggio l'incontro fra le varie associazioni che rappresentano le imprese. Un iter veloce per assicurare che qui, ora, si fa sul serio. Stamattina la riforma del mercato del lavoro è arrivata in commissione a Palazzo Madama, presente il ministro Fornero, per vedere di persona e per mettere subito in chiaro che ben vengano i miglioramenti, ma nessun passo indietro. La riforma del lavoro varata dal governo ha un buon equilibrio, afferma il ministro. L'equilibrio si può anche migliorare, ma non è nell'interesse del paese un'operazione con il bilancino all'indietro. Senza arretramenti, puntualizza la professoressa. Poi la stoccata alla Confindustria, che oggi incontra di nuovo le associazioni datoriali, perché la riforma arriva in Parlamento trascinandosi ancora le affermazioni taglienti della Marcegaglia sull'articolo 18. Noi pensiamo che per il licenziamento oggettivo, nel caso di manifesta insussistenza, il giudice può ordinare il reintegro, non stravolga proprio nulla. In altre parole, il testo non è stato snaturato e non è possibile sostenere questa tesi. Detto questo, l'esecutivo è disponibile a rivedere alcuni passaggi della flessibilità in entrata, a condizione però che gli abusi vengano combattuti con mezzi efficaci. Ancora nessun numero sugli esodati, il termine resta oggi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra pochi giorni nelle sale italiane Diaz, prodotto dalla Fandango di Domenico Procacci, già premio del pubblico all'ultima Berlinale. Il regista Daniele Vicari al microfono di Marta Cagnola. Diaz perché nel momento in cui ho letto gli atti dei processi io mi sono visto dentro quella scuola. Io cittadino italiano mi sono visto dentro quella scuola e ho visto intorno a me crollare i principi fondamentali della nostra democrazia. E mi è sembrato proprio un dovere fare un film per raccontare questa sensazione. Com'è stato il costruire un film la cui idea già suscitava polemiche, il solo pensiero? No, ma in Italia suscita polemica qualunque cosa abbia intenzione di fare luce, di fare chiarezza o di rendere note delle cose di cui incredibilmente si tende a non parlare, si tende a mettere in secondo piano. Credo che tra l'altro nel caso specifico della scuola Diaz e del carcere di Bolzaneto ci sia poco da chiarire, nel senso che i processi hanno chiarito tutto, non c'è stato nessun difensore dei poliziotti, diciamo, imputati che abbia detto non è vero che è accaduto quello che è accaduto. Ciascuno ha tentato di non essere coinvolto, di non essere giustamente, insomma, come fa parte del gioco di un processo, no? Io non c'ero, io non ho visto, io ero dall'altra parte, quello lì non ero io. Paesi dell'Asia si teme un nuovo tsunami e la memoria torna a quello che devastò le coste nel 2004. Collocati bot per 11 miliardi, vola il tasso dei titoli a 12 mesi, recuperano le borse, cala lo spread. La preoccupazione di Napolitano per la crisi, c'è un ritorno da clima invernale. E ripartiamo da quanto sta accadendo in Asia, il terremoto e il pericolo di tsunami, ancora in diretta qui con noi Adriana Fracchia. Sì, buongiorno, una terza scossa di assestamento, questa volta di magnitudo 8.8, è stata registrata sempre ad Aceh dall'Agenzia Geofisica Indonesiana, che continua a lanciare l'allerta tsunami, e dopo la prima scossa sempre di 8.8 di stamani c'è stata una seconda scossa di 6.5, ora questa terza scossa. Sulla base della lettura dei sensori del livello del mare, lo tsunami si è generato e può essere distruttivo lungo alcune coste, ha affermato Nedio Zitellini del CNR ISMAT, citando i dati del Pacific Tsunami Warning Center del NOAA. Non tutti sono dello stesso parere, come abbiamo sentito l'ambasciatore italiano indonese Faila, sulla base delle sue informazioni non è dello stesso avviso, così come non lo è l'Istituto di Geologia e Vulcanologia, che sostiene anche che la faglia sia diversa rispetto al grave sisma che avvenne nel 2004. Sentiamo appunto il sismologo dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, Alberto Michelini, ai nostri microfoni. Le prime indicazioni che abbiamo è che questo terremoto qua è spostato rispetto al terremoto del 2004 più verso est, quindi in questo senso qua sembrerebbe non essere coincidente con quello del 2004, questa è la prima cosa, e la seconda cosa è anche il meccanismo focale, cioè diciamo pure l'inclinazione della faglia è anche differente rispetto a quella del 2004. Quindi ci sono delle marche, oltre il terremoto chiaramente anche più piccolo rispetto a quello del 2004, perché quello del 2004 era dell'ordine di 9.2, quindi enorme come terremoto, questo qui siamo sull'ordine delle 8.8. Adesso c'è ancora un rischio che ci siano forti scosse? Sicuramente sì, cioè dopo un terremoto di questa grandezza qua, scosse di assestamento, aftershocks fino a magnitudo 7, 7.5 sono insomma da aspettarsi assolutamente. E l'allerta tsunami è ovviamente molto forte, quanti paesi riguarda in questo momento? Ma l'allerta tsunami riguarda tutti i paesi che sono circostanti. Grazie ad Adriana Fracchia per questi aggiornamenti. Naturalmente nel corso della giornata, nel corso dei GR24, torneremo ad aggiornarvi su quanto sta accadendo in Asia. Ora cambiamo argomento. Il Consiglio d'Europa boccia senza appello il sistema di finanziamento pubblico dei partiti in Italia. Un tema che è tornato in primo piano per lo scandalo che sta travolgendo la Lega. In diretta da Roma, Elisabetta Fiorito. Sì, i partiti studiano come cambiare il finanziamento mentre il Consiglio d'Europa boccia il sistema. Oggi pomeriggio gli sherpa di PDL, PD e Terzo Polo si incontreranno per mettere a punto un provvedimento di 3-4 articoli. C'è già l'intesa sui controlli della Corte dei Conti e sulla certificazione di società esterne. Non sarà affrontata invece la questione dell'entità e delle modalità di finanziamento, su cui restano divergenze. Un progetto di legge snello per affrontare il problema della trasparenza in tempi brevi. Per il segretario PD Pierluigi Bersani servono nuovi controlli, ma i finanziamenti sono necessari per evitare che chi è il più ricco faccia il burattinaio. Non siamo santi, dice Bersani, ma noi nel PD abbiamo già preso misure. E anche Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori fa sapere che il suo partito non si metterà di traverso. C'è poi il richiamo del Consiglio d'Europa proprio sul finanziamento dei partiti italiani, carenze importanti, controlli inefficienti e sanzioni inefficaci, una situazione su cui è urgente porre rimedio per l'Europa. La maggiore debolezza è proprio il sistema dei controlli, il ruolo che i cittadini possono svolgere è molto limitato e molto frammentato. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E l'ex ministro dell'interno Roberto Maroni sta arrivando in procura a Milano per incontrarsi con i PM che indagano sui fondi della Lega. Maroni dovrebbe illustrare ai magistrati i passi compiuti dal partito per fare chiarezza al proprio interno. Intanto, dice l'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito in un'intervista, non ho mai fatto nulla da solo, in tanti della Lega sapevano quel che facevo. Oggi giornata di lavoro in via Bellerio per Maroni e Calderoli dopo la giornata di ieri dell'Orgoglio Padano. L'ex ministro ha rilanciato il ruolo dei giovani e invitato alla meritocrazia. Le nostre lauree sono vere. Lo striscione degli universitari padani alla Fiera di Bergamo sintetizza lo stato d'animo dei giovani del Carroccio. Alberto Ribolla è il vice coordinatore del Movimento Universitario Padano. Diverse notizie relative a lauree false o lauree acquistate che non riguardano insomma la linea politica della Lega, che è quella di meritocrazia. Appunto, come riportava lo striscione degli universitari padani, le nostre lauree sono vere perché ce le siamo sudate. Dai giovani deve ripartire il rilancio del Carroccio, grida Roberto Maroni, indicando un percorso da seguire basato sulla meritocrazia. Lucio Brignoli è il coordinatore federale dei giovani padani. La Lega, l'abbiamo dimostrato in questi giorni, non è un partito di plastica, è un partito dove la gente si incazza perché crede in ideali, idee, obiettivi e pretende il rispetto dei principi, la coerenza, la trasparenza, l'onestà. A livello locale, ma non solo, è cresciuta una classe dirigente, quella di cui poi parla Maroni, dei trentenni, dei quarantenni, gente che fa politica perché ci crede, dopo il lavoro, nel tempo perso, perché è la propria passione. A giugno si deciderà chi sarà a guidare la Lega e se Brignoli non esclude un sostegno ad Umberto Bossi, Alberto Ribolla la pensa così. Maroni potrebbe rappresentare in maniera più forte e determinante lo spirito leghista attuale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Confermo che per noi la TAV rimane un'opera prioritaria, lo ha detto il vice ministro delle infrastrutture Mario Ciaccia a proposito delle nuove proteste contro la realizzazione dell'opera in Val di Susa. Favorisce lo sviluppo e la crescita e il paese non vi può rinunciare, ha detto Ciaccia. Non è un'opera importante solo a livello locale, ma riguarda l'intero paese. Ancora proteste, come dicevamo questa mattina, e nel pomeriggio mobilitazione in tutta Italia. Ancora una volta stamattina circa un centinaio di Notav partiti da Bussoleno in provincia di Torino sono giunti allo svincolo di Chianocco e hanno occupato la 32 Torino-Bardonecchia in entrambe le direzioni di marcia. I manifestanti hanno trasportato masserizie sulle carreggiate, mentre attorno al cantiere di Chiomonte alcuni attivisti hanno manifestato contro l'occupazione temporanea dei cantieri, battendo con dei bastoni sulle reti e gridando slogan. Inoltre è iniziato stamattina in Val di Susa l'iter per gli espropri temporanei dei terreni del cantiere della ferrovia ad alta velocità. Sono stati convocati una settantina di simpatizzanti Notav, proprietari dei piccolissimi appezzamenti, anche di 3 metri quadrati, che avevano acquistato per rallentare le procedure. E il movimento annuncia per oggi una grande mobilitazione di protesta in tutta Italia dal titolo 11 aprile Notav in ogni città. I Notav infatti saranno a Roma in corteo dalle 17 e dalle 18 a Milano e in altre città. La manifestazione è iniziata già ieri sera però in Val di Susa, dove alcune centinaia di persone, sfidando il maltempo, fango e neve, hanno organizzato una fiaccolata fino alle recinzioni dell'area del cantiere, dove hanno passato la notte. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La casa automobilistica tedesca Audi annuncerà l'acquisto del marchio Ducati la prossima settimana, lo scrive l'edizione online del quotidiano tedesco Handelsblatt, che cita fonti riservate vicine alla trattativa con la casa di Borgo Panigale. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Un mungitore su due in nero. È quello che è venuto alla luce da una maxi operazione nella bassa lodigiana per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale da parte delle aziende che producono latte. Un blitz scattato alle 3 del mattino sull'uscio delle stalle. Non piccole aziende, si badi bene, ma grandi allevamenti con mandrie comprese fra i 250 e i 400 capi, dove lavoravano mungitori di varia nazionalità. 15, si è scoperto, riscuotevano in nero i compensi, cosa che consentiva ai datori di lavoro di evadere il pagamento delle relative tasse e contributi. Per ogni lavoratore, ora il titolare dell'azienda dovrà pagare una sanzione. Un capitolo, quello dei contributi non pagati ai mungitori, che si va ad aggiungere all'annosa questione delle quote latte, questione originata, come ha raccontato tempo fa Paese Sommerso, dall'evasione fiscale. Negli anni 80 si dichiarava metà del latte prodotto, quindi l'Europa ha fissato quote latte molto più basse di quanto in realtà avveniva, da qui le multe, beffati quindi due volte perché non abbiamo incassato le tasse sul latte prima e perché paghiamo ora multe da 3 miliardi all'Europa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio contro l'usura, prima del calcio d'inizio di Roma-Udinese che si giocherà stasera all'Olimpico, il Lazio-Lecce che si disputerà il 22 aprile, i giocatori esporranno lo striscione con scritto Roma Capitale contro l'usura. Sentiamo il presidente di Confcommercio Roma, Giuseppe Roscioli, al microfono di Dario Ricci. Cerchiamo di amplificare anche questo tipo di messaggio che vogliamo dare, faremo sentire anche noi la nostra presenza, almeno per quello che possiamo fare per tutti coloro che si trovano in questo momento, in questo stato così particolare. Ecco, c'è anche all'atere dell'appuntamento sportivo, ma che è in realtà la cosa più importante, la firma di un accordo con il Comune, con Roma Capitale, con Confcommercio, proprio in chiave anti-racket. Può darci i punti centrali di questo accordo? Sì, noi avremo uno sportello presso la Confcommercio al quale diciamo che l'esercente, il commerciante o chiunque, anche chi fa servizi, il turismo, qualsiasi tipo di situazione si venisse a creare, c'è uno sportello in cui in tutta privacy si può descrivere il proprio momento difficile e da quel momento scattano tutta una serie di incontri con assistenze anche da parte sia delle organizzazioni nostre di sindacato, sia del comune e di altri enti preposti proprio a questo tipo di supporto. Quindi insomma, Presidente, possiamo concludere che contro l'usura non si è laziali o romanisti, si sta tutti insieme dalla stessa parte. Ah, sicuramente, bisogna mettere in campo le forze migliori e noi è quello che stiamo facendo assieme a tutti. Una delle partite di stasera l'abbiamo sentita a Roma-Udinese, ma tutta l'attenzione è puntata sulla Juventus che ritenta il sorpasso sul Milan. Il Milan ha battuto un colpo secco di Muntari che ha piegato il Chievo e ha permesso ai rossoneri di ripartire e superare la Juventus nonostante le assenze e l'effetto Barcellona. L'eliminazione dalla Champions è infatti una zavorra maligna che pesa sia sulle casse della società che sullo spirito. Allegri voleva che il Milan reagisse. Per il nostro funerale, dice il tecnico, è ancora presto. Sapevamo che in caso di sconfitta, di mancata vittoria, potevamo uscire definitivamente dalla lotta a scudetto. Questo non è stato, ragazzi, sono stati veramente bravi. Non abbiamo giocato bene, però abbiamo fatto una partita di cuore, di voglia di poter portare a casa un risultato importante che ci riporta al momento in testa alla classifica. Ma per il Milan non c'è tempo di festeggiare. La Juventus prepara il controsorpasso, forte di un entusiasmo e di una freschezza che al momento non teme confronti. Stasera ospita la Lazio e Antonio Conte, l'allenatore, senza nominare la parola scudetto, dice una cosa semplice ed efficace: non ci resta che vincere. La Lazio è terza in classifica, non è un cliente accomodante e proprio per questo, dice Conte, bisogna concentrarsi su questo ostacolo. Non dimentichiamo che fino a 3 domeniche fa abbiamo giocato ritrovandoci a meno 7 in classifica per 2 volte consecutive, quando abbiamo dovuto giocare contro l'Inter e contro la Fiorentina eravamo a meno 7, poi abbiamo giocato quando eravamo a meno 5 con l'obbligo quindi di vincere, e poi abbiamo giocato a Palermo con l'obbligo di vincere, perché alla fine io la cosa che dico ai miei ragazzi, noi dobbiamo vincere. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prossimo GR 24 alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.